Focus Economia. . 17.06 Focus Economia, ben trovati da Vincenzo Miglietta. Anche oggi occhi puntati sui mercati e soprattutto sui titoli bancari, che non solo in Italia ma anche nelle altre piazze europee stanno condizionando in negativo gli scambi. A Piazza Affari il comparto del credito è quello più sotto pressione, malissimo allora nello specifico Monte dei Paschi di Siena, coinvolta in una serie di sospensioni per eccesso di ribasso. La banca senese è stata fermata mentre cedeva tra l'11 e il 12%, giornata poi da dimenticare anche per Unicredit, Banco Popolare e Medio Banca. Nulla di nuovo dunque rispetto a ieri, se non il fatto che le perdite sono più sostenute, poi che nel calderone di oggi vi sia anche Monte dei Paschi, che ieri era stata l'unica a salvarsi. Cercheremo di capire nei nostri approfondimenti perché, nonostante i discreti risultati degli stress test, le banche continuino ad essere penalizzate dagli investitori. Uno sguardo rapido quindi ai listini. Dicevamo male Milano, FTSE MIB meno 2,87% in questo momento, DAX Francoforte meno 1,89%, FTSE 100 di Londra meno 0,54%, Parigi meno 1,88%, Wall Street meno 0,62%, il Dow Jones Standard & Poor's 500 meno 0,84%, euro su dollaro in questo momento 1,122. Altra notizia di giornata con risvolti giudiziari sul settore bancario. Poi la Guardia di Finanza, lo abbiamo ascoltato anche nel GR24, ha arrestato l'ex AD di Veneto Banca Consoli su disposizione del GIP di Roma per aggiotaggio ed ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Perquisizioni in casa di 14 indagati, oltre ad un sequestro preventivo per decine di milioni di euro nei confronti di persone legate all'istituto di credito. Approfondiremo anche questo aspetto e poi parleremo di quanto costa gestire i rifiuti in Italia, con un focus particolare su Roma, dove i cittadini sono i più vessati sotto questo aspetto, con la tariffa Tari che è la più cara in Italia, più del 30% rispetto a Milano, oltre il 40% rispetto a Torino. Sullo sfondo, lo ricordiamo, si sta consumando il braccio di ferro tra il presidente dell'AMA Fortini e la neo assessora all'ambiente Muraro, ora nella giunta 5 Stelle ma per 10 anni consulente della stessa municipalizzata. Questo dunque il nostro percorso di oggi. Scriveteci allora al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia del sito di radio24.it. Passiamo ora alle notizie in breve. Notizie in breve che per le quali partiamo come al solito dalle materie prime. L'oro sale dello 0,8% a $1,362 l'oncia, il petrolio oggi inverte il suo trend, un timido più 1% a $40,4 al barile. Alcune notizie di economia internazionale, parliamo però di calcio. Il sito sportivo cinese dongjudi.com riferisce che la trattativa per il passaggio di proprietà del Milan alla cordata di Sal Galatioto sarebbe saltata. Il gruppo asiatico, sempre secondo le stesse fonti, non avrebbe trovato i fondi per portare a termine l'acquisto del club e si sarebbe ritirato dall'affare. In ambienti vicini a Fininvest questa notizia non trova però riscontri. Il mercato immobiliare per quanto riguarda la Gran Bretagna, il sogno di un'abitazione di proprietà è ormai diventato inarrivabile per milioni di britannici. Secondo i dati diffusi dal think tank Resolution Foundation, c'è stato un clamoroso calo nel numero di proprietari di case nel Regno Unito, che segna il dato peggiore negli ultimi 30 anni. La percentuale di famiglie che posseggono il tetto sotto il quale vivono, incluse quelle con un mutuo, ha raggiunto l'apice nel 2003 al 71%, per crollare quest'anno al 64%, un numero che non si vedeva dall'86. Adesso un po' di notizie relative al mondo dell'auto. Il governo della Baviera farà causa alla Volkswagen. Il calo del prezzo delle azioni della casa automobilistica di Wolfsburg, si legge in una nota, determinato al Dieselgate, danneggia i fondi pensione bavaresi, da qui la decisione di far causa. Sempre Volkswagen, le vendite sul mercato automobilistico americano continuano a calare e in luglio scendono dell'8,12%. In calo anche General Motors, sempre sul mercato americano, le vendite in luglio sono calate dell'1,9%, il dato è inferiore alle attese degli analisti che scommettevano su una flessione dell'1%. In flessione anche Ford, sempre sul mercato americano, in luglio le vendite sono scese del 3%. E poi rapidamente il mercato delle auto in Italia, rallenta sì il mercato anche in Italia, però rispetto ad un anno fa il trend è nettamente positivo, quindi nel mese di luglio le immatricolazioni sono state 136.275, il 2,9% in più rispetto allo stesso mese del 2015, i dati sono del Ministero dei Trasporti, dall'inizio dell'anno le consegne sono state 1.179.068. Performance maggiori del mercato le fa segnare FCA. A luglio le vendite del gruppo in Italia sono state 39.234, il 4,8% in più rispetto allo stesso mese del 2015. Nei primi 7 mesi dell'anno le immatricolazioni della casa automobilistica italo-americana sono state oltre 340.000. Ottimi risultati per la Ferrari, che ha chiuso il secondo trimestre del 2016 con un utile netto di 104 milioni di euro, in crescita del 35% sull'analogo periodo del 2015. Le consegne totali hanno raggiunto le 2.214 unità con un aumento dell'8%. Siamo in tempo di vacanze, a tutti sarà capitato di pagare l'imposta di soggiorno al mare, in montagna, sono sempre di più i comuni che la utilizzano e sono saliti a 650 ad oggi proprio i comuni che applicano un'imposta di soggiorno, lo calcola la UIL con un approfondimento del suo servizio politiche territoriali, su diffusione e incassi della tassa facoltativa a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive di località turistiche o città d'arte. Ad applicare quest'anno è il 14% in più dei comuni che già lo facevano nel 2014. Lo ricordiamo, lo strumento fu lanciato a Roma nel 2010 tra le misure per ripianare il deficit comunale e poi introdotto strutturalmente e per tutti i comuni l'anno successivo. Per quanto riguarda gli incassi, vediamo un po' la classifica. Il gettito maggiore lo riceve proprio Roma con 123,1 milioni, segue Milano che ha incassato la metà, 61 milioni, poi Venezia 27,5 milioni. L'approfondimento oggi, come ieri nella nostra prima parte, tra pochissimi minuti, è proprio al mondo delle banche, quindi in chiusura di queste notizie in breve torniamo velocemente sulla nuova pioggia di vendite sui titoli bancari italiani, Unicredit che è rientrata agli scambi dopo tante difficoltà, lo stesso per Monte dei Paschi di Siena. Cerchiamo di capire maggiormente, secondo alcuni analisti MPS è tornata ad essere bersaglio degli investitori, sui timori per la difficoltà di mettere in pratica il piano industriale di rilancio, a pesare sarebbero le criticità messe in luce dagli stress test e la questione dei crediti deteriorati, per cui si fatica a mettere a punto una soluzione di sistema. Già mi immagino le critiche che arriveranno al 349-238-6666, perché necessariamente, essendo il Presidente del Consiglio, andremo a far ascoltare ma anche a citare più volte le parole del Presidente del Consiglio Renzi sulle banche, ma lo ricordiamo, è il Presidente del Consiglio e quindi va citato, soprattutto quando parla di economia in questo momento. Penso che gli stress test abbiano mostrato che le banche italiane non sono il problema del sistema europeo, dice Renzi, questa è la vera novità. Negli ultimi 12 mesi ogni giorno si diceva che il problema erano le banche italiane e noi replicavamo che non era vero. Alla fine gli stress test mostrano la realtà, aggiunge il Presidente del Consiglio. Abbiamo la migliore banca europea, Intesa San Paolo, e 4 istituti su 5 sono in una buona situazione. Il problema, ricorda il Premier, è Monte dei Paschi, per la quale abbiamo lavorato con forza a una soluzione di mercato, perciò sono soddisfatto del risultato. Sin qui dunque le notizie in breve, mi fermo qui, passiamo al nostro primo approfondimento. Nostro primo approfondimento che dedichiamo alle banche, ma al risvolto, l'importante risvolto giudiziario che vi è stato oggi, lo abbiamo anticipato nelle notizie in breve. La Guardia di Finanza ha arrestato l'ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, e ha compiuto numerose perquisizioni, oltre ad un sequestro preventivo per decine di milioni di euro nei confronti di persone legate alla stessa banca. I provvedimenti eseguiti da un centinaio di finanzieri sono stati emessi dalla Procura di Roma. I reati contestati sono aggiotaggio ed ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Il periodo al centro dell'indagine è il biennio 2013-2014. Parliamo di tutto ciò con la nostra collega del Sole 24 Ore, Katy Mandurino. Buon pomeriggio, Katy. Buon pomeriggio a voi. Katy, i reati contestati li abbiamo letti, ci stai raccontando tu stessa nei nostri giornali radio di oggi, però cosa c'è dietro a questo burocratese dei giudici? Spiegaci meglio cosa avrebbe fatto Vincenzo Consoli. Ma intanto c'è da dire che, chiedo scusa, sento un'eco pazzesca, però continuo a parlare, sono certa che voi mi sentite bene. Ti sento benissimo. Ecco, intanto c'è da dire che l'inchiesta è partita un anno e mezzo fa, queste sono le conseguenze dell'inchiesta partita dalla Procura di Roma, che a sua volta era partita da un'indagine della Banca d'Italia del 2013. Nel 2013 la Banca d'Italia aveva effettuato un'ispezione, a cui poi è seguita nel 2015, nel febbraio del 2015, un'altra ispezione della Guardia di Finanza, le quali hanno sostanzialmente visto che all'interno della banca si eseguivano delle operazioni cosiddette baciate, cioè operazioni in base alle quali venivano vendute delle azioni alla clientela con finanziamenti diretti della banca. Certo. Questo tipo di operazione, che chiaramente è vietata dal mercato, non faceva che aumentare il numero delle azioni e anche il loro valore sul mercato, e questo chiaramente faceva apparire la banca agli occhi degli investitori come una banca sana e ricca. Questa metodologia viene contestata a Consoli, vengono contestate anche altre abitudini. Quello che c'è scritto nell'ordinanza di oggi firmata da Vilma Passamonti è molto interessante, perché fa luce su una sorta di dominio incontrastato di Vincenzo Consoli nel corso degli anni, in particolare dal 2013-2014, ma anche nei mesi successivi, quando la banca era già sotto gli occhi delle sezioni della vigilanza. Certo, e certo. Anche della BCE. C'è un passaggio significativo che dice l'ordinanza che Consoli non avrebbe mai interrotto il rapporto fiduciario e di matrice personalistica instauratosi nel tempo con alcuni operatori investitori del mercato. Questa è una cosa molto grave. Insomma, c'è da una parte le operazioni baciate, le obbligazioni convertendo, eccetera, dall'altra parte c'è un'abitudine da dominus, come è stato spesso definito Consoli, che adesso viene messa bene in luce dagli inquirenti. Quindi Katie, allora, da una parte abbiamo un meccanismo per altre vicende, quindi già noto e che in questo caso viene portato alla luce dalle indagini di oggi, confermato quantomeno, ovvero a fronte di finanziamenti veniva chiesto anche l'acquisto di azioni, ed è quel meccanismo che ha messo tanto in difficoltà soprattutto il mondo del credito veneto. Dall'altra parte ci stavi dicendo giustamente le pressioni di Consoli sarebbero ancora in atto, quindi due fronti molto ben distinti. Ma o perlomeno erano in atto anche negli anni in cui venivano svolte le ispezioni di Consob, le ispezioni di Banca d'Italia, gli avvertimenti della BCE. Cioè, sembra che Consoli non abbia mai interrotto il suo collegamento, il suo filo diretto con la banca, oppure abbia fatto delle pressioni su manager interni che al momento comunque non sono più all'interno del gruppo. Ecco, tutto questo è una novità, era una cosa che in qualche modo si sapeva o di cui si parlava, adesso è scritto nero su bianco su un'ordinanza di custodia cautelare. Certo, tutto questo, anche se mi rendo conto è difficile rispondere a questa domanda, per tutti gli azionisti tra virgolette truffati che hanno avuto difficoltà con Veneto Banca, è solamente una soddisfazione post morale, o può portare a qualcosa di positivo? C'è stata una discontinuità con la nuova gestione? Ma c'è sicuramente una discontinuità, le cose dal 2015 sono cambiate radicalmente in modo profondissimo, pensiamo all'ingresso di Atlante, la messa in sicurezza dei conti della banca, per cui con l'aumento di capitale da 1 miliardo e la mancata quotazione in borsa, l'ingresso di Atlante, di fatto la banca ha ricominciato una nuova vita. Tutti questi manager, funzionari, indagati, lo stesso Consoli non fanno più parte del gruppo Veneto Banca, e questo è sicuramente una cosa positiva, è una base solida da cui la banca può ripartire. Fra 6 giorni, l'8 agosto, ci sarà la prima assemblea dopo l'ingresso del Fondo Atlante nella compagine societaria, che decreterà un nuovo CDA e quindi un nuovo corso della banca, una rinascita a tutti gli effetti, e questo è fondamentale. Chiaramente l'obiettivo di recuperare i risparmi perduti da parte di piccoli, medi, grandi risparmiatori, ma soprattutto i piccoli, insomma, ricordiamo che sono stati bruciati una decina di miliardi tra il mancato valore delle azioni e tutto quello che è successo in questi ultimi 2 anni. Ecco, certo, quindi recuperare questo sarà molto difficile. Sarà molto difficile, anche perché ecco, che ti parli di decine di miliardi a fronte oggi di un sequestro di circa 45 milioni, che sono una cifra rilevante, ma è nulla rispetto ai miliardi di cui parli. Però è importante che nelle indagini di oggi siano coinvolti anche, se non sbaglio, il Collegio dei Sindaci, alcuni dirigenti di alta fascia, oltre a Consoli, ovvero quindi vi era tutto... Questi sono sequestri preventivi, per cui come dire non faranno questi soldi a portare soddisfazione a chi ha perso tutti i propri risparmi, eccetera. E la cosa importante di oggi, secondo me, è che finalmente si fa luce su un passato che veniva solamente raccontato, cioè si alza un velo, diciamo così, e finalmente bene, si dice: questo è stato il passato, questa è stata la gestione Consoli, è stata una gestione sbagliata, una gestione che ha portato alla rovina questa banca, da oggi in poi la banca è un'altra cosa. Insomma, l'inchiesta non porta sicuramente male alla banca, almeno dal mio punto di vista. Certamente, certamente. È comunque un punto fermo per avere più chiarezza e per far sì, tra l'altro, che la nuova dirigenza possa lavorare in una maggiore serenità. Io ringrazio la collega del Sole 24 Ore, Katie Mandurino, e cambiamo argomento. Veniamo al tema principale della nostra puntata, che è quello che poi stiamo un po' seguendo da ieri, il perché i mercati stiano reagendo così male agli stress test, che di fatto invece erano stati comunque discretamente positivi per quanto riguarda il sistema bancario italiano, ma anche per le altre 50 banche europee prese in considerazione. Quindi il mercato italiano, Piazza Affari, va male, ma anche le altre borse europee. Di tutto questo andiamo a parlare con il nostro ospite, che è Andrea Cuturi, vicepresidente di Antiglia SGR. Buon pomeriggio, Cuturi. Buonasera. Buonasera. Si è data una spiegazione lei il perché da ieri, ma soprattutto oggi, vi sia questa reazione così negativa di Piazza Affari e più in generale anche delle altre borse europee? Intanto abbiamo avuto la conferma che l'esercizio degli stress test è un esercizio sostanzialmente inutile. I soggetti vigilati sono vigilati dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali locali, debba da un inizio che il mercato dimostra di ignorare, quindi da questo punto di vista abbiamo fatto un esercizio molto teorico, abbiamo avuto dei risultati, il mercato non crede a questi risultati. Questa è la prima, diciamo, ed è una cosa già forte che sta dicendo, cioè gli stress test che stavamo aspettando da settimane sono inutili, però sembrerebbe in effetti che i mercati ci stiano dicendo questo. Prego. Il mercato ha anticipato un risultato sostanzialmente positivo degli stress test, al netto di qualche eccezione, tant'è vero che il settore bancario europeo è salito nelle due settimane precedenti, e poi nel momento in cui ha avuto i risultati è andato a caccia del prossimo sacrificale. Quindi dopo la conferma che Monte Paschi è un problema e che però è stato sostanzialmente risolto, il motivo per cui oggi è molto debole è perché qualcuno è andato a leggere un po' meglio i dettagli della struttura dell'operazione di aumento di capitale e come dovrebbe prendere forma, e ha appreso il fatto che non c'è una garanzia ma c'è un impegno a far sì che questo, certo, vada in porto. Quindi le banche che faranno parte del consorzio, capitanate da JP Morgan, si impegnano a fare del loro meglio, ma non a garantire l'aumento di capitale, e questo ovviamente ha gettato un minimo di sconforto. Ed eccoci qua, un meno 13 dopo un meno 13 di ieri. Certo, esatto. Certo. Però Cuturi, la sua analisi va benissimo, la interrompo però perché lei dice gli stress test sono stati di fatto inutili, poi le verrò a chiedere allora come un settore del credito può essere comunque monitorato, quindi quale strumento possiamo utilizzare per arricchire la nostra conversazione e anche per arricchire, spero, l'ascolto dei nostri ascoltatori. Vado sul Presidente del Consiglio Renzi, che susciterà, ripeto, anche qui critiche, perché lo facciamo ascoltare, ma per Renzi gli stress test hanno provato che le banche italiane non sono un problema, e per quanto riguarda Monte dei Paschi, di cui parlava lei, dice ora è banca senza i non performing loans, ovvero senza i crediti deteriorati, la migliore soluzione ora è la crescita, dice Renzi, che noi andiamo ad ascoltare in un'intervista alla CNBC, quindi sentiremo Renzi parlare in inglese. I think there is the best way to solve the problem of NPL is the growth. And this is my priority, my dream and my nightmare. Every day I think about it. Growth, growth, growth. I became prime minister after 2 years of recession. And the first priority. And the first result for me... Ecco, l'inglese del Presidente del Consiglio Renzi molte volte viene un po', si ironizza su questo, ma è stato molto chiaro. Renzi dice la migliore cura e la mia preoccupazione è la crescita, termine che ripete più volte. Secondo Renzi, però, ecco, tornando ad Andrea Cuturi, vicepresidente di Antiglia, gli stress test sono stati comunque un buon tornaconto per le banche anche italiane. Oggi abbiamo avuto una conferma. La migliore delle banche italiane, una delle migliori tra quelle europee, oggi ha riportato i numeri, cioè Intesa San Paolo, e il mercato non sta credendo a una guideline per la seconda parte dell'anno sostanzialmente in linea con la prima e con una ripetizione del dividendo a livelli attuali, che porta il dividend yield del titolo molto alta. Questo per dire che la migliore banca in Italia, la più solida, la più visibile a livello internazionale, è una delle due banche SIFI, quindi quelle sistemiche internazionali, nelle ultime 48 ore ha perso circa il 7% del suo valore, certo, a fronte di uno dei migliori risultati dello stress test, e dei risultati veri, cioè la semestrale riportata oggi e guideline da parte del management, come quelle che abbiamo commentato. Quindi tutto questo per dire che il mercato sta cercando di capire cosa succede nella seconda parte dell'anno. Si concentra sull'Italia perché l'Italia quest'autunno ha un passaggio cruciale, e il presidente Renzi, che abbiamo sentito parlare nel suo inglese, e vi assicuro che la curva di apprendimento di Renzi è molto alta, perché 3 anni fa il suo inglese era molto diverso da quello che abbiamo sentito oggi. Detto questo, ha avuto quindi un miglioramento rapido. Assolutamente. Detto questo, abbiamo in Italia un passaggio referendario molto importante, che in modo un pochino semplicistico gli anglosassoni vedono un po' come la Brexit in Inghilterra. Quindi referendum passa, il governo rimane, referendum non passa, il governo salta. Cuturi, quindi è quello che stiamo, è il motivo per cui c'è un accanimento su Italia e forse Spagna, che non ha ancora un governo. Questo è il motivo. Ma la fermo un attimino certo, qui, perché andiamo sul meteo, però riprenderemo con lei. Con questo paragone, la Brexit sta al Regno Unito come il referendum sta al futuro del governo Renzi. Il meteo. Focus Economia. Di nuovo insieme, 17:33 Focus Economia. Stiamo cercando di capire insieme al nostro ospite Andrea Cuturi, vicepresidente di Antilia SGR, il perché i mercati stiano rispondendo sin da ieri male agli stress test, che invece sono andati discretamente bene a livello europeo, ma anche per gli istituti italiani. Ricordo, il FTSE MIB ha chiuso a -2,80, malissimo MPS -12,87, Banco Popolare Emilia Romagna -11,27, Banco Popolare -9,62, Banca Popolare di Milano -8,50, Unipol -8,41, i migliori del listino: Campari +3,89, Ferrari bene +0,99. Cuturi, stavamo dicendo quindi delle perplessità, le sue perplessità sull'utilizzo degli stress test, anche mi sembra che non la convinca neanche il piano per Monte dei Paschi di Siena. Sentiamo però brevemente Fabrizio Viola, amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, proprio sui crediti deteriorati. I think the new plan we issued last Friday, I think it's focused in order to solve the main problems the bank had and the main problems that anche oggi e anche per Viola, come per Renzi, abbiamo un'intervista in inglese. Di fatto Viola spiega come l'intervento sui non performing loans sia la strada giusta intrapresa da Monte dei Paschi. Cuturi, ci spieghi allora, secondo lei, poiché un meccanismo deve essere trovato per monitorare il sistema bancario europeo, che non sta vivendo da anni un buon stato di salute, se gli stress test non vanno bene, cosa farebbe lei? No, veramente io non farei nulla, nel senso che esiste e già funziona, si chiama vigilanza, è la vigilanza della BCE che fa vigilanza su le prime, non ricordo il numero esatto, ma le più importanti banche in Europa, e poi la vigilanza nazionale che segue le banche del sistema paese. Quindi questo è quello che veramente fa fede. Detto questo, un esercizio come quello dell'EBA vuole prevenire situazioni come quelle del 2008 molto critiche, quindi fa degli stress test, degli scenari macroeconomici particolarmente avversi, e poi sostanzialmente va a dare delle indicazioni. Ma ricordiamoci tutti che è la BCE che chiede a una banca di fare un aumento di capitale, non certo, l'EBA. Quindi da questo punto di vista faccio riferimento all'operazione che io ritengo la migliore che ci sia in Italia in questo momento, cioè quella di integrazione tra la Popolare di Milano e il Banco Popolare, il banco, che oggi sono tra le due più penalizzate in borsa, e questa è una cosa che non mi piace per niente. Non mi... Certo. Queste due banche hanno un progetto di integrazione ormai definitivamente approvato a livello di consigli, c'è un passaggio di assemblea che avverrà in autunno. La BCE, per dare via libera, ha chiesto di fare un aumento di capitale per il Banco Popolare, e questo è accaduto, quindi è un'operazione che sta funzionando. Nonostante tutto questo, il mercato, e qui c'è molta speculazione giornaliera, io la definisco, quindi sì, volumi che iniziano la giornata ma non la finiscono, cioè, operazioni che si chiudono in giornata, lavorano molto sugli arbitraggi del concambio, eccetera, eccetera. Quindi bisogna fare un po' sfogare questa speculazione, si incontrino al bordo delle loro piscine e decidano chi è il cattivo della giornata. Fra sei mesi io penso che una delle banche, la terza del paese, sarà per dimensioni, che lavora in una delle migliori aree macroeconomiche in Europa, come quella della Lombardia, del Veneto e del Nord Italia, penso che sinceramente varrà significativamente di più rispetto a oggi. Quindi se io oggi dovessi segnalare un'operazione, una banca che ai prezzi di stasera secondo me non ha senso, uno per tutti è Popolare di Milano. Ecco, invece, quindi punto interrogativo sugli stress test, lei dice c'è la vigilanza, nell'ambito invece di questa microclassifica che si è creata per quanto riguarda le banche italiane, quindi stress test e banche italiane, è una classifica che la soddisfa, che corrisponde a realtà veramente intesa, è l'istituto più performante, oggi Messina, che è l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, parla di risultati solidi e di 3 miliardi di dividendi. Non avevamo bisogno dello stress test per sapere che la banca italiana più capitalizzata e con miglior CET ratio one è Intesa San Paolo, quindi diciamo, da questo punto di vista non ho valore aggiunto se non quello della trimestrale, della semestrale che oggi ci ha dato, è una guidance come quella che lei menzionava, dividendo e seconda certo. parte dell'anno. Io la ringrazio, Andrea Cuturi, vicepresidente di Antiglia SGR, la ringrazio per il suo intervento e passiamo proprio ad analizzare nel dettaglio la giornata in borsa. Di borsa che cerchiamo di capire nello specifico con il collega di Radio Core Sole 24 Ore, CEO Condina. Buonasera CEO. Ciao, buonasera a tutti. CEO, partiamo allora dalla chiusura del FTSE MIB, meno 2,76%? Sì, assolutamente sì, è stata una seduta tutta a ribasso per il FTSE MIB, poi l'apertura in negativo di Wall Street non ha aiutato, tant'è che poi a mezz'ora dalla chiusura dei listini Piazza Affari è arrivata anche a perdere il 3% come peggiore listino del vecchio continente, appesantita soprattutto dai ribassi del settore bancario. Ecco, settore bancario, ne abbiamo parlato ampiamente, ma con te vorrei analizzare per quanto è possibile alcuni valori di alcuni istituti, per esempio Intesa, uscita bene dagli stress test, anche oggi paga un risultato negativo, meno 3,5%, nonostante anche le parole dell'amministratore delegato Messina con risultati solidi e 3 miliardi di dividendi. Perché? Beh sì, diciamo anche che comunque Intesa San Paolo è la migliore delle banche a Piazza Affari come borsa oggi, come performance borsistica, e considerato che lo stocks di settore in Europa ha perso quasi il 4%, il meno 3,8% di chiusura di Intesa San Paolo è da leggere non così negativamente. Del resto l'utile netto di gruppo nel primo semestre è calato sì del 14,8% a 1,7 miliardi, ma si è comunque confermato sopra le stime del mercato. In più, come accennavi tu, l'amministratore delegato Messina ha confermato l'entità dei dividendi per quest'anno e ha anche sottolineato il fatto che la banca sia in anticipo sul piano industriale. La performance in borsa di Intesa ha maggior valore se si guarda quelle che sono le performance di altri istituti, certo. Al di là del Monte dei Paschi che ha perso il 16%, c'è la Banca Popolare Emilia Romagna che ha perso il 12%, il Banco Popolare BPM che hanno ceduto il 10%. Male anche Unicredit? Assolutamente, Unicredit ha ceduto il 7%, qui pesa, pesano le continue voci di un aumento di capitale da 7-8 miliardi di euro, secondo l'edizione odierna del Messaggero addirittura la banca starebbe già ragionando sull'operazione, ci sarebbero già stati dei primi summit informali. Unicredit, come tutte le principali banche europee, paga oggi anche l'effetto Commerzbank, una delle principali banche tedesche, che ha sostanzialmente tagliato le stime per il 2016. E paga quindi le performance negative di Commerzbank. Ricordiamo che Unicredit è molto rivolta al mondo tedesco. Assolutamente sì, Unicredit è una banca che ha un'anima esposta appunto sulla Germania, al di là di questo comunque diciamo che oggi a Piazza Affari si sconta ormai con quasi certezza il fatto che la banca debba ricorrere a una operazione di ricapitalizzazione, non si escludono anche ulteriori cessioni, ricordiamo che nelle scorse settimane sono state vendute delle quote nei gioielli di famiglia di Unicredit, ovvero la polacca Pekao e Fineco Bank, ma a questo punto molti operatori giudicano inevitabile un ricorso al mercato per raccogliere nuovi mezzi freschi. Certo, Ceo, passiamo a quei titoli che hanno avuto degli andamenti positivi, c'è tutto il settore dell'auto abbastanza in fermento che va a premiare la Ferrari. Sì, la Ferrari era negativa fino alla pubblicazione dei conti che è avvenuta nel primo pomeriggio sostanzialmente con l'apertura di Wall Street, dopo questa pubblicazione dei conti ha invertito rotta e ha chiuso in guadagno del 2,5%. Cosa dicono i conti? Dicono ricavi in rialzo nel secondo trimestre del 5,9%, 811 milioni, un utile netto che invece nel semestre è cresciuto del 24%, ma anche la conferma per fine anno di ricavi EBITDA e debito, quindi insomma se sulle piste di Formula 1 le cose non vanno bene, anzi non vanno male per la Ferrari, si può dire che per quanto riguarda i bilanci invece si vedono dei progressi. Lamentare, certamente, e ottima performance anche per Campari con conti e target che sono nell'obiettivo della dirigenza. Sì, oggi c'è stata la pubblicazione della trimestrale, il primo semestre ha chiuso con un utile netto in calo del 14%, ma sul risultato hanno pesato gli oneri riconducibili all'acquisizione del Grand Marnier in Francia, al netto di queste voci l'utile netto sarebbe cresciuto di quasi il 10% a 77 milioni, ma qui il mercato ha premiato oggi per Campari essenzialmente due cose, da una parte la conferma dei target per fine anno, dall'altra il fatto che sia un titolo molto difensivo e proprio in una giornata così in cui a Piazza Affari sono state duramente penalizzate le banche, poi gli acquisti si sono concentrati appunto su Campari. Ecco, un'ultima cosa, Ceo, mi sembra che tra le materie prime vi sia stato un'inversione per quanto debole con il petrolio che è tornato un po' in terreno positivo. Sì, aveva iniziato molto bene, guadagnava oltre l'1%, adesso a Wall Street si è raffreddato leggermente, poco sopra la parità, comunque sopra i $40 al barile, vedremo nelle prossime ore come andranno le negoziazioni. Grazie al collega di Radio Cor Sole 24 Ore, Ceo Condina. Noi ci fermiamo per dare spazio alle strade. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia per quanto riguarda la giornata di oggi, parte che andiamo a chiudere con un titolo emblematico di quanto sta accadendo qui a Roma. Vi trasmettiamo queste puntate di Focus Economia dagli studi di Radio 24 del Sole 24 Ore da Roma. Ultima parte, dicevamo, la chiamiamo la capitale dei rifiuti. Stiamo seguendo il braccio di ferro tra la dirigenza dell'AMA, che è la municipalizzata di Roma che si occupa di gestire, di raccogliere e di smaltire i rifiuti, il nuovo assessore della Giunta 5 Stelle, ex consulente della stessa AMA, la Muraro, braccio di ferro perché la Muraro accusa i vecchi vertici, gli attuali, anche se dimissionari, vertici dell'AMA di non aver fatto quanto dovevano per risolvere la questione dei rifiuti a Roma, si replica dicendo la stessa Muraro è stata per 10 anni consulente dell'AMA e si parla di compensi che hanno superato in questi 10 anni il milione di euro. Questa parte la lasciamo sostanzialmente al giornale radio, noi affrontiamo più l'aspetto del perché. Oggi se ne parla sul Sole 24 Ore in un articolo del collega Gianni Trovati, che è presente qui in studio. Buon pomeriggio Gianni. Buon pomeriggio a voi. Parliamo del perché Roma, smaltire rifiuti a Roma costi così tanto, addirittura il 30% in più rispetto a Milano, il 40% in più rispetto a Torino. Parliamo di quanto paga un cittadino di Roma la bolletta che semestrale della cosiddetta Tari. Gianni, tu ne dai una spiegazione, cerchiamo di andare passo passo e capire il perché di questo. Sì, allora questi sono i costi che i cittadini pagano in termini di collettività, cioè i costi del contratto di servizio del comune nei confronti delle aziende che gestiscono i rifiuti. La causa del fatto che Roma è record fra le grandi città è molteplice, nel senso che la stessa AMA sottolinea, diciamo, la complessità del territorio di Roma, che è molto più grande rispetto a quello delle altre grandi città italiane, ma c'è anche il dato sostanziale, quello che spiega anche perché le strade della città siano invase da rifiuti, il fatto che il ciclo non si chiude, quindi tu non hai impianti di smaltimento in grado appunto di chiudere completamente la gestione dei rifiuti e sei costretto a pagare soldoni per inviare questi rifiuti al nord, all'estero e così via, cercando di tamponare via via un'emergenza che appunto non viene risolta. Va detto che una diminuzione piccola dei costi era avviata, il contratto di servizio del 2015 costa meno rispetto a quello degli anni precedenti e si era anche visto in una piccola diminuzione della Tari a carico degli utenti. Una diminuzione di tasse locali a Roma è un inedito, quindi insomma c'era parso giusto segnalarlo. Certo. Tuttavia siamo a livelli lontanissimi da quelle delle altre città. Quello che succede è poi il mancato rapporto tra questi costi elevatissimi e una qualità del servizio che insomma basta girare per le strade per capire quanto sia bassa, e questo determina o meglio aggrava il fatto che i cittadini romani in media siano poco propensi, diciamo così, a pagare puntualmente la Tari. C'è un tasso di riscossione molto basso, addirittura nel 2015 il tasso di riscossione di competenza, cioè i pagamenti effettuati nell'anno stesso in cui sono effettuati dovuti, si erano fermati al 15%, l'85%, molto poco, certo. Come dire, si trasformava in arretrati da recuperare. Questo crea un circolo vizioso, perché meno la gente paga, più sale la tariffa e quindi gli onesti si caricano di una parte della evasione di tutti gli altri. Quindi la tariffa cresce e il livello di servizio invece scende ulteriormente, perché i pagamenti servono a finanziare il servizio. È un intreccio, diciamo, di circoli viziosi che è difficilissimo da districare e che naturalmente non viene come dire facilitato dal clima anche politico di scontro del momento. Ecco, ma qualora, ti chiedo questo, tutti i cittadini pagassero la Tari, è comunque un servizio che va ad autopagarsi? Questo avviene in altre città più virtuose, o comunque sarebbe comunque un servizio in deficit? No, questo avviene di regola, diciamo, nelle città che funzionano, da Milano a Torino o così via. La differenza, il delta fra quanto è la tariffa dovuta e quanto è la tariffa pagata è minimo, cioè un deficit, diciamo così, fisiologico, che però viene recuperato, che delle può essere volte compensato magari negli anni, no? Esatto, un anno più, esatto, un anno meno. Esatto, teniamo conto che strutturalmente il servizio rifiuti deve essere finanziato integralmente dalla Tari. Cioè, come funziona? Il comune fa il contratto di servizio con l'azienda, si accordano, costa 100, quei 100 devono arrivare dalla Tari, cioè il servizio rifiuti non può essere a carico della fiscalità generale. Poi naturalmente il malfunzionamento della macchina pubblica nel suo complesso ha un'influenza determinante. Per esempio, tornando al caso di Roma, ieri la sindaca Raggi ha ricordato i debiti importanti, certo, che l'AMA ha nei confronti delle banche e così via. È vero anche, va detto, che nel bilancio dell'AMA ci sono iscritti oltre 400 milioni di crediti, dal comune, cioè che l'AMA attende dal comune. Quindi quando il dare e avere si inceppa, naturalmente saltano tutti, come dire, i meccanismi gestionali di equilibrio anche finanziario di un servizio pubblico. Ecco, a discolpa dell'AMA o comunque della città di Roma, lo leggiamo nello stesso tuo articolo di oggi, si evidenzia il fatto che Roma è comunque estesa su un'area, un chilometraggio che non è paragonabile né a Milano né a Torino. Questo può essere una giustificazione per l'AMA? È una giustificazione che naturalmente determina il fatto che più il territorio è vasto in rapporto alla popolazione, più aumentano alcuni costi fissi, quindi un delta, una differenza rispetto ai costi di città più concentrate. L'AMA ricorda nella relazione al bilancio che la somma delle superfici di Milano più Torino più Bologna, cioè tutte queste tre città messe insieme, fa il 30% del comune di Roma. E quindi, c'è una difficoltà strutturale. Il problema qual è? Che la differenza di costo pro capite rispetto a Milano, Torino, eccetera, è elevatissima. Ed è elevatissima, al contrario, anche la differenza di livello del servizio. Quindi, tornando alla tariffa, questa che ci interessa, nel peggiore dei casi, dicevamo, solamente il 15% dei romani pagano la Tari. Puntualmente, sì. Il delta fino al 100% viene caricato sugli altri cittadini, o c'è poi anche una partecipazione di fiscalità generale, cioè sono poi magari gli altri cittadini italiani con le proprie tasse a coprire questa differenza? Beh, prima di tutto l'AMA va in deficit, deve chiedere finanziamenti, ha dei costi di ammortamento dei finanziamenti e questo aumenta i costi del servizio. In più, nei costi del servizio viene a essere calcolata una quota da coprire come garanzia per i mancati incassi, per la mancata riscossione, cioè nella città che funziona la mancata riscossione del 5%, quel 5% medio tende a caricarsi in tariffa per garantire appunto l'equilibrio finanziario. Nella città che non funziona, se la mancata riscossione del 40, 50 e rotti per cento tende a caricarsi in tariffa quella percentuale così più alta, quindi la tariffa aumenta ancora di più, la gente la paga ancora meno e chi la paga, paga più di prima, proprio perché alla fine il conto strutturale deve tornare, perché la legge dice la Tari è una tariffa corrispettivo, cioè deve pagare integralmente il costo del servizio, non è come l'IMU, certo, che è una tassa. Così, generale, o l'IRPEF o così via, è una tariffa collegata allo specifico servizio, io ti do tot, tu paghi tot. Diciamo che poi nella realtà dei fatti la Tari si presenta appunto come bollettino a casa nostra da pagare, poi il servizio dipende dalle volte. Ecco, e qualora in un mondo ideale riuscissimo, gli amministratori di Roma, gli attuali, i futuri, riuscissero a chiudere quel ciclo di cui ci accennavi all'inizio, che al momento a Roma non è chiuso, quindi raccolta ma anche smaltimento, qualora si riuscisse a raggiungere questo, che effetti potremmo avere sulla Tari? Beh, la Tari naturalmente scenderebbe, perché tu non avresti più i costi i costi, chiamiamoli così, postali della spedizione dei rifiuti in altre regioni, e in più probabilmente, avendo un livello di servizio più diciamo così accettabile, avresti anche un tasso di pagamento maggiore e quindi una spalmatura dei costi, come dicevamo prima, più equilibrata. Naturalmente per farlo servono degli investimenti, anche gli investimenti vanno finanziati, ma come tutti gli investimenti, come facciamo nelle famiglie quando compriamo casa, certo, spendiamo di più prima per spendere meno dopo. È una cosa che va calcolata in un orizzonte pluriennale, ma bisogna cominciare, perché così avanti è difficile andare. Cerchiamo di essere propositivi e diamo un consiglio magari agli amministratori di Roma, qualora ci stessero ascoltando. Ci sono degli esempi in Italia dove uno dice: parto da Roma, vado in questa città, vedo come è strutturata e porto il modello a Roma. Mi puoi fare un esempio? Beh, oddio, come dire, esempio esportabile tu cura Roma non c'è, però ricordiamoci che anche Milano, che si vanta della sua virtuosità e così via, in anni passati aveva un problema di chiusura del ciclo dei rifiuti, è stata ben sull'orlo di una emergenza rifiuti, non lunga e strutturale come quella romana, ma insomma c'era arrivata molto molto vicino, ha fatto degli investimenti, ha fatto gli impianti che servono, il ciclo si chiude, la cosa funziona e la Tari costa anche meno. La Tari costa meno, speriamo che ecco questo possa essere un buon esempio per applicarla a Roma. Chiudiamo quindi questa puntata ricordando che i cittadini di Roma pagano la Tari più cara di tutta Italia. Ringrazio il collega Gianni Trovati del Sole 24 Ore, grazie, ringrazio ancora Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, Valerio Rocchetti in regia, un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24, la passione si sente.